I just wrapped up a meeting with leaders from both parties. It was our first chance to get together face-to-face since the election to talk about how we can best work together to move the country forward. Now, it's no secret that we have had differences that have led us to part ways on many issues in the past. But we are Americans first, and we share a responsibility for the stewardship of our nation. Avete sentito il presidente Barack Obama, un presidente ottimista appena uscito da un incontro con i repubblicani. Ecco, non c'è stata una svolta a Washington, ma c'è stato l'avvio di un dialogo che di questi tempi è cosa non da poco. Infatti il presidente ha finalmente incontrato alla Casa Bianca per la prima volta dalle elezioni di quasi un mese fa la leadership repubblicana, e l'umore rispetto agli ultimi due anni di muro contro muro sembra comunque cambiato, perché quando li ho visti uscire da questi incontri in modo separato hanno fatto dichiarazioni, ma i toni da ambo le parti erano molto più conciliatori. We had a very frank conversation, and it was interesting that both Democrats and Republicans and the President understood what the American people had to say on election day, I think pretty clearly. Yeah, I would only add, I thought it was a useful and a frank discussion. We did have an opportunity to reiterate that it is the view of 100% of Senate Republicans and a number of Senate Democrats as well that the tax rates should not be bifurcated. In other words, that we ought to treat all taxpayers the same. The president did recognize that the election meant that the people want to see results out of Washington. Avete sentito qui le voci di Boehner, che sarà il nuovo capo della maggioranza repubblicana alla Camera l'anno prossimo, la voce di McConnell, che è il capo della minoranza al Senato, la voce di Cantor. Il messaggio che hanno dato i repubblicani è anch'esso conciliatorio, ma c'è soprattutto nelle parole di uno di loro, di McConnell, una dichiarazione che mi ha colpito, perché ha ricordato come quando ci si trovò in una situazione analoga, cioè con una maggioranza repubblicana in congresso e con un presidente democratico, Bill Clinton, il dialogo poi funzionò, si portarono a casa molte riforme. Lui stesso ricordò come Bill Clinton si prestò a trovare un accordo con i repubblicani per una riforma del welfare. E dunque il messaggio politico è: caro Obama, muoviti verso il centro, anzi verso il centrodestra.